volevo dire a Ulisse, di cui siamo le conduttrici preferite. Certo, che buon gustaio. È logico. Per raffreddore. Nicoletta, magari che dici? Assolutamente, direi che. Ecco, non avevo acceso, vedi? Il microfono è utile in radio, non so se lo sai. Amo la radio perché arriva dalla gente. Me ne vado, ti lascio il microfono, ti lascio da sola i prossimi 45 minuti. Sì, d'altra parte tu farei la brava? Non hai bisogno di guardarti allo specchio, non hai bisogno di mantenerti giovane perché giovane lo sei, non vedo nessun segno, i capelli perfetti. La mia rugona qua d'espressione, cosa lo chiederemo faccio? Alla nostra esperta. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere nei tuoi occhi. Acqua è il nostro costituente principale, ma la sua quantità deve essere mantenuta costante, non deve cioè calare né aumentare troppo. Che è una bella sfida, Deborah. Ma niente paura, perché ci pensano la pelle e i reni. Mm. Questi ultimi, soprattutto, sono una coppia di lavoratori instancabili che, tra gli altri compiti, ha proprio quello di regolare i liquidi presenti nel nostro corpo. Ma i due, Deborah, fanno molte cose in più. Una coppia di lavoratori indefessi, proprio, si può dire. Pensa che qualcuno li ha chiamati addirittura i registi della nostra salute. Ah. Ecco, è un appellativo che è ampiamente meritato, come avremo modo di scoprire nel corso della trasmissione. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, ma anche per rispondere al domandone di oggi. Lo fai anche tu? Sì. Brava. Perché beviamo? Provate a pensarci, chiamate l'800 24 00 24, potete scrivere al 349 238 6666. Vi do delle risposte possibili, opzioni. Potete sceglierne una, sceglierne altre, tutte, per poter eliminare le scorie dell'organismo. Beviamo perché sudiamo e la sudorazione contribuisce alla termoregolazione. Beviamo perché abbiamo delle perdite d'acqua obbligate. Beviamo per mantenere le vie aeree umide e una corretta composizione dell'aria che respiriamo. Quindi a voi la scelta, potete sceglierne una, tutte, nessuna, oppure inventarvene un'altra. Noi aspettiamo naturalmente le vostre risposte. La liquidità, il grande tema della giornata, questo è il motivo per cui l'abbiamo scelto anche io e Nicoletta. Chissà se da oggi l'Europa potrà muoversi su un pavimento un po' più liquido. Non ci riferiamo naturalmente ma al maltempo, ma alla liquidità finanziaria, quella che ci si aspetta potrebbe essere iniettata dalla Banca Centrale Europea di Mario Draghi, il cui direttivo è riunito proprio in queste ore, da questa mattina. Una notizia che attendiamo per questa giornata e che sarà anche al centro dell'appuntamento con Investire Informati dalle 11.45 oggi con Ugo Loser, amministratore delegato di Arca SGR. Per cui attenti naturalmente anche a questa parte. Anche noi avremo il nostro quizzettone per regalarvi tanti libri. Ne parleremo di tutto questo nella seconda parte di Cuore e Denari. Attenti a quei due, potremmo sottotitolare così la puntata di oggi, in cui in questa prima parte parleremo di una coppia molto importante per la nostra salute, i reni, una coppia, come anticipava Deborah, di lavoratori instancabili che abbiamo invitato nella puntata di oggi, in cui parleremo di liquidità dal punto di vista dei denari. Lo farà Deborah a partire dalle 11.45 nella scuola di risparmio, e dal punto di vista del cuore, inteso come salute. Infatti i reni mantengono costante la quantità di liquidi presenti nel nostro organismo, ma non si fermano qui, lavorano in continuazione e sono implicati in una serie di processi e di funzioni. Quindi impariamo a prendercene cura, a proteggerli, e il primo passo è conoscere le situazioni e le condizioni che possono metterli un po' in difficoltà, e soprattutto individuare anche i segnali che evidenziano la loro sofferenza. Questo non è proprio semplice. Lo stomaco, ad esempio, ci avverte quando fa fatica a digerire, l'intestino ci fa capire ogni giorno come e quanto lavora, il cuore non ce le manda a dire perché a volte basta un leggero battito. batticuore ad attirare la nostra attenzione. I reni invece lavorano in silenzio, non mandano messaggi, non si prendono grandi meriti. Dobbiamo però imparare a conoscere il loro linguaggio, perché anche loro parlano, e a pensare che esistono, non solo quando ci lamentiamo di loro per descrivere quel dolore che avvertiamo nella parte bassa della schiena. Avremo sentito sicuramente dire da qualcuno, avremo detto ho male qui ai reni o alle reni, ma sarà davvero lì che abita la nostra coppia? 800 24 00 24. Siamo la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri che sono tristi e sono tristi perché non sanno più cos'è l'amore. Se non è la coppia più bella del mondo, perché siamo noi due, Deborah, diciamolo. Io non volevo avventurarmi su un terreno di modestia come questo, però purtroppo quando le cose vanno dette bisogna dirle. Ecco. Allora, noi siamo la coppia più bella del mondo e loro sono una coppia molto preziosa. Intanto salutiamo il dottor Giuseppe Rombolà, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Benvenuto a voi e a tutti gli ascoltatori. Intanto una new entry di Cuore Denari. Benvenuto allora doppio. Doppio. Per il dottor Rombolà. Allora ti dico chi è il dottor Rombolà. Il dottor Rombolà è direttore dell'unità operativa di nefrologia e dialisi dell'ospedale di Varese. Ottimo. Sai che cambiano sempre, un tempo si chiamavano primari, adesso direttore dell'unità operativa. Insomma, questa è la qualifica del dottor Rombolà e soprattutto ci aiuterà oggi a capire di più sui nostri reni, sui segnali che ci mandano. Dottor Rombolà, se il cuore è il motore del nostro organismo, a che cosa possiamo paragonare i nostri reni? Beh, per restare nello stesso ambito di diciamo meccanico così, i reni assomigliano un po' al carburatore, nel senso che sono quegli organi che fanno sì che i liquidi corporei, la composizione degli stessi, eccetera, mantenga un livello ottimale per le funzioni delle cellule e quindi per la funzione dell'organismo. È un sillogismo, ma è abbastanza vicino, ecco. Regolano la composizione. Il carburatore, quindi. Il cuore, il motore, i reni, il carburatore. Senta, dottor Rombolà, a proposito, dove abita la nostra coppia? Può fare male? Sa che anche a lei, immagino in ambulatorio, saranno arrivati dei pazienti a dire «Dottore, ho male qua alle reni», che è proprio in fondo, no, alla schiena. Certo. È lì che abitano? No, non abitano lì, abitano un po' più in alto, sono due organi piccoletti, pari, simmetrici, come si dice, e che abitano un attimino più in alto, abitano immediatamente sotto la milza il rene di sinistra e un po' sotto il fegato e dietro il rene di destra. Sono un po' più alti di dove si intende abitualmente le reni, che è la colonna lombare. Quindi noi quando abbiamo il mal di schiena e mettiamo le mani dietro la schiena e diciamo un mal di reni, sono le reni, non i reni. Che è un modo di dire, ma quindi che non c'entra con l'organo anatomico, con l'anatomia, ecco, dei reni. Femminile plurale. Che tra l'altro sono anche abbastanza carini, sembrano due fagioli. Due fagiolini, certo. I nostri degli umani sono due fagioli, perché sono lisci, hanno una forma abbastanza, come giustamente diceva lei, come un fagiolo. I reni di altri animali come i bovini eccetera sono in realtà lobulati, come sono quando sono i bambini piccoli, cioè hanno tante insenature sulla loro superficie che non sembrano lisci, che non sono lisci come i nostri, ecco. Quindi i nostri sono più belli, quelli degli altri animali sono più, diciamo, un po' più particolari, hanno delle pugne esterne che si vedono, ecco. Vedi, anche questa poteva essere una domanda del nostro quizzettone. Oggi ci siamo limitati a chiedermi, ma è una domanda intrigante, un po' a trabocchetto, perché beviamo. Vi abbiamo anche suggerito delle opzioni, sceglietele, sono valide tutte, nessuna, una, due, volete aggiungerne qualcuna, candidatevi. Dottor Rombolà, ci sono tanti luoghi comuni, a volte privi di fondamento, che circolano questa coppia. È pensiero abbastanza comune che sia la quantità di acqua che introduciamo a far lavorare i nostri reni. Bevo così lavo i reni, si sente dire. In realtà i reni lavorano sempre, non solo nel momento in cui introduciamo liquidi attraverso le bevande o l'alimentazione, ma è anche vero che a loro non piace rimanere a secco, come non piace all'organismo in genere, ma a loro in modo particolare, immagino. Certo, certo. Il rene è un organo di quelli che si auto, in caso di mancanza d'acqua, cioè quando c'è una forte disidratazione, sono gli organi che si autosacrificano, cioè non si penalizzano per mandare, per tenere una pressione adeguata e mandare il sangue agli organi considerati più nobili come il cervello, il cuore stesso, eccetera. Loro si penalizzano e fino ad azzerare l'emissione delle urine, per esempio. Ora, il rene in realtà con l'acqua non la utilizza sia per eliminare le scorie, perché non è possibile produrre urine solide, certo. Quindi ci deve essere una certa diluizione per forza dei sali che dobbiamo eliminare. Però in realtà il rene e l'acqua, il rapporto rene-acqua è un rapporto che va visto nell'integrità dell'organismo, perché il rene è l'organo effettore del quantitativo di acqua che uno ha nell'organismo. Cioè noi non abbiamo, ci sono alcuni animali che ce l'hanno, ma noi non abbiamo un sensore del sodio nel sangue, no? Perché sì. Il sodio è il gemello dell'acqua, come dire, si regolano insieme la concentrazione del sodio e la quantità di acqua. Noi se dovessimo disidratarci e quindi il sodio nel sangue aumentare, noi percepiamo quello, certo. E ci dice bisogna bere, e l'organo che esegue lo stimolo alla sete è l'ipofisi, quello che riduce le perdite dall'organismo, quindi l'altro ramo, è il rene, concentrando molto di più le urine ed eliminando molto meno acqua. È esperienza comune che la mattina le urine sono più colorate perché durante la notte non beviamo. Infatti utilizzeremo proprio con l'aiuto del dottor Rombolà l'urina come cartina tornasole della salute e del benessere dei nostri reni. Quindi ci racconterai cosa corrisponde il giallo paglierino, certo, tutte quelle cosine là, sì, ecco. Quante volte andiamo a fare la pipì, quanta ne facciamo, ottimo. Colore, quantità, numero, dimensioni, ma torniamo all'acqua, dottor Rombolà. A proposito di acqua, noi siamo i maggiori consumatori di acqua minerale nel mondo, 190 litri a testa all'anno, il doppio rispetto a un trentennio fa, seguita a ruota dai tedeschi. Sono i dati di Bevitalia, che è la pubblicazione più completa sul mercato delle bevande analcoliche. Piace quella naturale al 20% degli italiani, quella frizzante al 17%, quella effervescente naturale ad un altro 17%, e i rimanenti piacciono tutte, basta che si acquano. Ma c'è un'acqua che piace in modo particolare ai reni, e oltre alla qualità, al tipo di acqua, vogliamo anche parlare di quantità certo, giornaliera? Certo, i reni, come dicevamo prima, ricevono l'acqua, filtrano un quantitativo di sangue enorme durante la giornata, cioè il filtrato dei reni è circa 180 litri e il contenuto di sale in questi 180 litri è più o meno 1,5 kg di sale al giorno. Sì. Quindi i reni devono, una volta filtrato tutto questo volume di sangue, questo volume di sale, devono riassorbirlo in modo da regolare perfettamente la composizione dell'organismo. Per questo io facevo il paragone col carburatore, sì. La miscela di lì nel caso di benzina e di aria nel caso del carburatore. Qui sono i sali e l'acqua, che devono essere perfettamente coerenti con l'omeostasi corporea. Noi beviamo l'acqua viene assorbita, si distribuisce in tutti i tessuti e poi arriva ai reni. Che arrivi un'acqua, che noi si ingerisca un'acqua di un tipo o di un altro tipo, al rene interessa poco. Insomma, non sono dei degustatori di acqua, loro no, basta, hanno loro dei gusti fanno, abbastanza semplici. Silenzio, acqua che sia acqua. Esatto, punto. Acqua che sia acqua. Certo, ci sono delle patologie invece dove alcune acque sono sconsigliate, oppure il quantitativo di acqua totale della giornata deve essere controllato. Alcune patologie, come per esempio lo scompenso cardiaco, la cirrosi epatica, pazienti dove i reni non funzionano più bene, o persone che hanno solo un rene, può fare la differenza? Perché ci stanno scrivendo. Senso, sì. No, nel caso di un solo rene non fa nessuna differenza, perché effettivamente noi abbiamo un patrimonio di unità funzionali del rene, diciamo che è almeno il doppio di quello che ci servirebbe. Infatti quotidianamente insomma è auspicabile quotidianamente, ma purtroppo non è così. Noi consigliamo ai pazienti con l'insufficienza renale il trapianto, sì, anche da donatore vivente, quindi il donatore di un rene resta con un solo rene, certo, a sua volta, e quindi se si tratta di persone giovani, questi qua sono poi in grado di affrontare tutto l'arco di vita che resta davanti, compresi alcuni momenti particolari, comprese le gravidanze, per esempio, se sono donne, dove il rene è esposto ad uno stress funzionale ancora maggiore. Quindi quando uno non ce la fa, l'altro fa il lavoro di due. Esattamente. Vedi, un po' come facciamo io e Deborah quando non c'è una, l'altra fa anche la lasciata, parte. L'ho lasciata sola, esatto, per 45 minuti. Ho fatto un po' a rene, vedi. Ho portato avanti tutto il lavoro senza alcun problema. Diciamo che abbiamo una buona scorta, ecco. Senta, che la natura ci ha fatto con una buona scorta. Dottor Rombolà, vogliamo leggere il messaggio di Alessandro? Leggo subito, lo stavo proprio guardando e ne sono anche molto contenta. In realtà voglio leggere anche quello della nostra amica Marta. Sì. Allora, le vostre trasmissioni sono sempre stupende, voi due bravissimi. Alessandro, che cosa dobbiamo fare oggi? Eleggerla l'ascoltatore del giorno. Ma quando avete ospiti come quello odierno che ci sta spiegando le reni in modo comprensibile, vorrei che non finissero mai. Per cui, dottore, si prenda questo complimento d'esordio e noi ne siamo ben felici. E poi leggiamo anche quello di Marta. Alla fine si è meritato. Marta, la nostra Marta, che è la nostra Marta Cagnano, che oggi ascolta con particolare attenzione la trasmissione, e poi dice: però come coppia anche Bellasio e io non siamo male. È vero, e infatti noi ne siamo ben felici, insomma, che queste accoppiate funzionino, Marta, così bene. Un bacione e un saluto. Allora, dottor Rombolà, noi abbiamo tempo sino alle 11.45 per raccogliere le telefonate e i dubbi dei nostri ascoltatori, per dare informazioni e consigli. Stiamo un po' sulla quantità di acqua, allora, da bere. Ci sono delle persone che devono fare magari particolare attenzione, lei ha nominato, ma una persona, un uomo, una donna, in buona salute, quanta acqua deve bere in un giorno, orientativamente? Beh, questa è una domanda che noi abbiamo visto la trasformazione di alcuni costumi negli ultimi anni. Mentre prima non si vedevano mai persone con una bottiglietta d'acqua in mano, adesso dappertutto si vedono persone con le bottiglie d'acqua in mano. Quindi c'è stato un cambiamento. E devo dire che è positivo questo cambiamento, per certi aspetti sicuramente lo è. Perché da quantitativi estremamente ridotti che si consumavano prima, adesso se ne beve di più acqua in generale. Quanta acqua dobbiamo bere? Più che l'acqua che dobbiamo bere, dobbiamo andare a considerare, diciamo, la quantità di urine che produciamo. Cosa voglio dire? Se andiamo, mi sembra un po' difficile, però. Beh, diciamo, ragioniamo molto all'ingrosso. Se uno urina meno di un litro al giorno, è evidente che sta bevendo poco. Sì. Se uno urina più di un litro al giorno, un litro e mezzo, questo direi che è un contenuto ottimale. Un litro e mezzo vuol dire un millilitro minuto più o meno di urina, ed è un contenuto ottimale. Diciamo da 1 a 2 litri è quello che dovremmo fare tutti quanti. Poi d'estate ovviamente bisogna bere di più per mantenere questo volume, certo, di urina, e d'inverno di meno. Se andassimo nel deserto, dove come una delle notazioni era sulla termoregolazione prima, eccetera, se andassimo nel deserto, la sudorazione porterebbe via un grosso quantitativo di acqua. Certo. E di conseguenza dovremmo bere di più. Le immagini di maratonete, a quanto acqua consumano, e tutti abbiamo visto, non so, i piloti della Formula 1, che quando finisce la gara quel giorno bevono quei grossi bicchieri, certo, di liquidi, perché hanno una sudorazione da stress in quel caso che arriva a 2-3 litri, cioè un pilota di Formula 1 tra l'inizio della gara e la fine della gara c'è una differenza di peso di almeno 2-3 kg. Chissà quanto, se io e Deborah pesiamo di meno da prima, dall'inizio alla fine di... Non rida così, dottor Rombolà, magari qualche grammino lo perdiamo anche noi. Ma magari, adesso andiamo a sentire che cosa ci combinano i mercati. Ma io che oggi giornata centrale. Invitare i nostri ascoltatori a chiamare il nostro numero verde, a rispondere al nostro quizzettone della prima parte. Perché beviamo? Dateci la vostra risposta per avere a casa un libro, e soprattutto ci facciamo un po' i fatti vostri. Vogliamo capire, usare l'indicatore urina come salute del nostro, della nostra coppia. Cuore e denari. Quando parla Draghi, silenzio, parla Draghi. Ha detto che siamo in recessione e che la crisi economica colpirà le famiglie. Davvero? Le famiglie, giura. Avrei più detto briatore, e invece colpisce le famiglie. Colpisce le famiglie. Signor Draghi, mi scusi, se le venisse in mente un'altra novità come questa, telefoni pure, anche nel cuore della notte, ce lo dica. Insomma, scherzi a parte, sappiamo invece che quando parla il nostro Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, si fa sempre molta attenzione anche al modo in cui comunica. E in particolare oggi la comunità finanziaria attende le sue parole. Da questa mattina è riunito a Francoforte il direttivo della Banca Centrale Europea. La maggior parte degli addetti ai lavori si attende che dopo questa riunione Draghi annunci l'avvio del tanto atteso piano di quantitative easing, un termine difficile per indicare un massiccio piano di acquisto di titoli di Stato o di un altro tipo delle obbligazioni, appunto, per immettere nuova liquidità. Si parla di un piano al momento da 50 miliardi al mese. Nuovo denaro nell'economia europea per incentivare i prestiti bancari verso le imprese, verso le famiglie, e tutto per far crescere l'inflazione. Funzionerà? Lo sapremo solamente nei prossimi mesi, ma intanto vi chiediamo se tutte queste notizie vi hanno un po' confuso le idee. Non temete, perché avremo tempo oggi di sederci sui banchi di scuola, di capire per bene di che si tratta e quali potranno essere, questo è il punto molto importante, le conseguenze per le nostre finanze, i nostri investimenti e i nostri risparmi. Tutto questo nel nuovo appuntamento di Investire Informati a partire dalle 11.45, ma intanto se avete delle domande iniziate a prenotarvi all'800 24 00 24. Hai perso conoscenza, ti hanno ricoverato in ospedale e perché non mi hai chiamato? Uno, non ho un cellulare. Due, avevo perso conoscenza. Che cosa dicono i dottori dei tuoi reni? È complicato. Devo parlare con un dottore. Forse non è il caso, principessa. Perché? Perché ti conosco, so che potresti agitarti. Guarda che io non mi agito mai. Bene, noi cerchiamo di non agitarci ma di imparare a conoscerli. Parliamo dei reni, sono due, sono simmetrici, lavorano sodo per assicurare il buon funzionamento del nostro organismo, sono stati ribattezzati registri della nostra salute, stiamo cercando di capire tante le funzioni che svolgono e insieme al dottor Rombolà, che sta riscuotendo grande successo tra i nostri ascoltatori. Dottor Rombolà, non so se lei sta diventando rosso, abbiamo cercato di trovare degli indicatori che possono essere utili per fare, non dico autodiagnosi, ma per capire se la coppia sta bene, se la manteniamo bene. Uno di questi è sicuramente la quantità della nostra urina, e sulla pipì, dottor Rombolà, si sono scatenati i nostri ascoltatori, quantità, il numero di menzioni e se ci sono delle differenze. Allora sentiamo subito. Tutti la seguono. Tutti la seguono. E la pipì la facciamo tutti. Donato la fa anche, Donato che ci chiama da Taranto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Donato la fa e la fa anche assai. La necessità della mia telefonata è questa, perché io sono preoccupato dal fatto che ho un eccesso di menzioni notturne che vanno dalle 7-8, nonostante abbia fatto analisi, accertamenti e verifiche, non è mai risultato nulla di che, però comunque la cosa mi infastidisce perché questa non mi permette di dormire in modo sereno, quindi volevo sapere se questo eccesso è qualcosa di cui mi devo preoccupare o comunque se ci sono delle soluzioni per ridurlo in qualche modo, insomma questa era la mia domanda. Dottor Rombolà, il dottor Ferini Strambi, gli esperti di medicina del sonno sottolineano che spesso chi si alza a fare la pipì durante la notte ha un problema di russamento e di apnee notturne, ma il nefrologo che cosa dice? Noi dal punto di vista strettamente, come dire, nefrologico, noi siamo costruiti per funzionare di giorno e riposare la notte, il che implica che durante la notte uno non dovrebbe andare a urinare se non quando l'attività dei reni svolta durante il giorno non è sufficiente a garantire l'equilibrio che dicevamo prima, cioè in caso di insufficienza renale. L'ascoltatore mi sembra di capire che ha fatto una serie di esami, come diceva, e credo che sia stato questo problema ragionevolmente escluso, cioè uno dei primi segni dell'insufficienza renale è che ci si alza la notte per andare al bagno, però non è il caso del nostro ascoltatore. Probabilmente lui ricade in quella che è molto più frequente come causa, che è collegata ai disturbi del sonno, come giustamente diceva lei. Vedi che sono un po' dutura. Certo. Ci sono delle condizioni che disturbano il sonno, come chi russa, le apnee notturne, eccetera, che creano una tensione, per usare un termine di facile fruibilità, una tensione che poi si manifesta anche con la necessità di andare al bagno. Il nostro ascoltatore non ha detto il volume per ogni singola menzione, spesso questi urinano poco e spesso. Poi ci possono essere tantissime altre cause, problemi vescicali, eccetera, ma non mi sembra il suo caso, perché lui dice a quindi fatto potrebbe indagare la sfera del disturbi del sonno. Del sonno, esattamente. Andiamo a Emma che ci chiama. Ammesso che abbia già escluso ragionevolmente tutte le cause organiche, certo, no? Vescicali e renali. Emma, buongiorno, sì, a lei. Sì, buongiorno. Come mi ritrovo? Come mi ritrovo in lei, Emma? Vedo già quello che sta scrivendo. Sì. Quello che voleva sì, raccontare. Sì, ecco, io vorrei chiedere al dottore, io non ho mai sete. E questo dipende da che cosa? Da quello che mangio, ecco, dai reni. Ecco, da che cosa vorrei sapere? Non sente mai lo stimolo della sete? No. Beh, dottor Rombolà, si perde negli anni, ma Emma è giovane, perché sono le persone anziane, certo, solitamente perdono lo stimolo della sete, per cui se avete delle persone anziane a casa, mi raccomando, controllate, stimolatele a bere qualche cosa, ad avere una dieta che comunque assicuri una buona quantità anche di liquidi. Ma dottor Rombolà, uno se non ha sete ed è giovane e sta bene, deve imporsi di bere? Beh, bisogna vedere quanto, come dicevamo prima all'inizio, quanta urina fa al giorno. Cioè, non c'è una necessità inderogabile di urinare 1,5 litri, 2 litri, 3 litri al giorno. Deve essere proporzionata alla quantità di acqua che si perde e alla quantità di acqua necessaria per mantenere una omeostasi, diciamo, normale. Sì. Lo stimolo della sete in realtà deriva da due elementi principali. O uno, si riduce la liquidità, per utilizzare il termine della giornata, il fil rouge della giornata di oggi, la liquidità dei liquidi corporei, il volume dei liquidi corporei, oppure perché uno ha perso liquidi corporei e è aumentata la concentrazione del sale che fa pandan con l'acqua e quindi c'è uno stimolo alla sete da eccessiva concentrazione di sale o da perdita eccessiva di acqua. Cioè ci sono queste due condizioni, l'ipovolemia e l'ipernatremia, queste stimolano la sete. La sete ha una soglia di sensibilità, questo recettore per la sete è stimolato da un meccanismo neuroendocrino, come tanti ormoni che partecipano, e ci sono persone che dove è più sensibile e persone che è meno sensibile. Con l'età si perde un po' la sensibilità, per cui, come giustamente diceva lei, le persone anziane bisogna stare attenti che bevano, perché sennò si disidratano facilmente. Le persone giovani no, probabilmente la signora appartiene a quella categoria di persone che hanno una soglia relativamente più alta. Cioè, quindi se bevete poco, andate, in sostanza bisogna capire se fate poca pipì o pipì abbastanza. Ecco, è la pipì che alla fine fa quadrare i conti. Quello in uscita piuttosto che quello in entrata. Ecco, no, di lì non si scappa. Tutto quello che introduciamo esce, quindi bisogna vedere. Se ne esce troppo poco vuol dire che ne abbiamo bevuto troppo poco. Deborah aveva una domanda molto interessante. E attuale, direi, perché, dottore, lei saprà che molte persone seguono delle diete di componente proteica molto elevata, prevalente, diciamo, e Fiorella per esempio ci chiede se questa ha un impatto anche poi sul regolare funzionamento dei reni. Dunque, questa è stata una questione che ha tenuto banco un po' nella società scientifica nefrologica mondiale, perché le diete sono un po' diffuse dappertutto, queste diete iperproteiche. Hanno fatto delle pubblicazioni sull'argomento e hanno documentato che nel breve periodo non ci sono danni. Breve periodo cosa vuol dire? Un mese, lì sei mesi? Hanno studiato un anno, non ci sono danni. Ora, il problema della dieta con l'eccesso di proteine, quando uno supera 1,5 grammi, 2 grammi pro chilo di peso, a lungo andare può comportare dei disturbi. Perché la dieta, cioè noi vediamo le proteine, ma uno non mangia una proteina così, la proteina è in un contesto, certo, quindi è carne, formaggio, uova, che hanno tutta una valenza aggiuntiva. Se è carne, salumi, affettati, vuol dire quantità di sale maggiore. Vuol dire che c'è un sovraccarico, c'è quella che si chiama iperfiltrazione renale. Quindi se nell'arco di un anno non comporta problemi, sì, in un periodo molto più lungo potrebbe. Quindi attenzione, e si sottolinea ancora una volta della dieta, che deve essere varia ed equilibrata. Certo. Stiamo terminando, abbiamo Ettore da Monza, Brianza, per il nostro quizzettone. Certo. Prima di salutare il dottor Rombolà, così gli chiediamo anche di fare il giudice. Ettore, buongiorno, perché beviamo? Sì. Ettore, sì, perché beviamo? Beviamo per depurare l'organismo. Allora, Ettore, anche per quello, in realtà la risposta giusta era perché abbiamo delle perdite d'acqua obbligate, quindi per depurare l'organismo, perché sudiamo, per mantenere le vie aeree umide, e chi più ne ha più ne metta. Dottor Rombolà, però a Ettore... indovinato, sì, una delle possibili. Beh, certo. Quindi a Ettore un libro, Cuore o Denari, Ettore? Grazie. Non ce lo dico. Cuore. Grazie Ettore, ci seguo anche nella parte dei denari perché continuiamo a parlare di liquidi. No, tra l'altro avete introdotto il tema del periodo, anche il dottore ha parlato del breve periodo, no? Inteso come possibile fastidio ad un rene secondo una dieta che viene seguita, siccome è un concetto che si trasferisce anche molto bene nella finanza. Mi fa piacere aver avuto questo assist. Dottor Rombolà, grazie per essere stato grazie con noi. Alla grazie, prossima, dottore. Buona giornata. Alla prossima, grazie a voi. Cuore e denari. Ed eccoci tornati, eccoci ritrovati a Cuore Denari, oggi dagli studi di Milano. Teniamo lo sguardo puntato a Francoforte. Cara Nicoletta, ci sei mai stata? No, mai, ma dobbiamo se vuoi andiamo. Andiamo a trovare Mario, dai. Dove da questa mattina è riunito il direttivo della Banca Centrale Europea e aspettiamo le parole di Mario Draghi, le tanto attese misure di quantitative easing. Spiegheremo stamattina in termini semplici che cosa indica questo termine. Insomma, anche in questo caso parliamo di liquidità, ma di liquidità monetaria per l'economia dell'Unione Europea. Questa è la notizia del giorno ed è anche al centro dell'appuntamento di questa settimana con Investire Informati. Investire Informati. Ormai lo sapete, abbiamo iniziato a dicembre questo percorso che si sta articolando in una serie di appuntamenti fissi ogni giovedì. In sostanza dialoghiamo con i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sui temi che sono a loro particolarmente cari. Nella prima parte la salute, naturalmente poi risparmio e gli strumenti per risparmiare. Ogni settimana ci assiste, ci tiene compagnia una società, un'organizzazione che si stanno alternando al nostro microfono per aiutarci a capire le dinamiche dei mercati finanziari che nelle ultime settimane si sono fatte di nuovo particolarmente vivaci e di conseguenza anche degli strumenti di investimento. Quindi ritorniamo su tutto: fondi, bot, BTP, pacchi, piani di accumulo, le obbligazioni, conti di deposito. Per la puntata di oggi abbiamo il piacere di avere con noi Ugo Loser, amministratore delegato di Arca SGR. Benvenuto. Buongiorno, grazie. Grazie. Buongiorno. Le modalità per interagire con noi le conoscete bene. Numero verde, esatto. 800 24 00 24. Lo so. I messaggi al 349 238 6666. Ma come sempre vi invitiamo a seguirci su Facebook, su Twitter oppure a scriverci un'email. Non dimenticatevi che siete i protagonisti del nostro Investire Informati. A metà della seconda parte, quindi intorno alle 12:15, come sempre vi mettiamo alla prova con una domanda per testare se la nostra lezione ha lasciato il segno. Naturalmente ai primi che risponderanno correttamente andrà un libro della nostra biblioteca. Dottor Loser, intanto, data la giornata impegnativa, noi la ringraziamo per essere venuta a trovarci, per cui grazie a voi. Si è preso un'oretta di pausa preferendo non guardare magari i terminali su come si stanno muovendo i mercati in queste ore in attesa appunto delle decisioni che arriveranno a breve. Stiamo caricando da settimane gli ascoltatori sull'importanza dell'evento di oggi. Ci traduce in termini semplici, magari anche a casa sua gliel'hanno chiesto, che cosa significa questo quantitative easing, dottor Loser? Grazie. Quantitative easing significa immettere una quantità di moneta aggiuntiva nell'economia, ovvero significa comprare dei titoli dal mercato e pagarli con della moneta che in maniera figurativa è stata stampata quel giorno per pagare questi titoli. Quindi l'effetto netto è, e mi perdoneranno gli accademici di economia monetaria, però l'effetto netto è di avere più moneta nell'economia, certo, e meno titoli. Questo fa sì che chiaramente il rendimento dei titoli scende e c'è tanta moneta che deve essere in qualche modo impiegata. Questo è un tema molto interessante, perché tra l'altro, dottor Loser, lei lo sa, lo sanno soprattutto gli ascoltatori, i risparmiatori che hanno già investito in titoli di Stato negli ultimi tempi, i rendimenti dei titoli di Stato sono già a livello molto basso. Quanto possono scendere ancora con questa operazione? Perché non credo che Draghi non abbia preso in considerazione questo aspetto. Ma questo è un tema sicuramente molto importante e delicato. Se guardiamo i titoli svizzeri, sono negativi di quasi un punto i rendimenti. Una delle tematiche che si sono poste sul quantitative easing è che la Banca Centrale Europea non potrebbe, in linea di principio, comprare titoli con rendimenti negativi, in quanto questo sarebbe equivalente a finanziare direttamente gli stati. È chiaro che da un punto di vista di un investitore privato ha poco senso comprare un titolo con un rendimento negativo, perché a quel punto tengo i soldi nel portafoglio, no? Invece di finanziare ulteriormente l'emittente. Come se io pagassi, esatto, l'emittente e poi anche la banca che intermedia questa operazione, naturalmente, perché non ci dimentichiamo che c'è anche quel costo. Esatto. L'esistenza di rendimenti negativi si spiega o con il fatto che qualcuno è obbligato a investire a rendimenti negativi, oppure perché qualcuno può finanziare un investimento in un titolo con rendimento negativo con un finanziamento con un tasso ancora più negativo. Questo, insomma, per darvi l'idea di quali temi ci siano in questo momento sul tavolo di Mario Draghi, quanto sono complicati, che implicazioni anche di natura politica, dottor Loser, hanno, perché lo sappiamo bene, che deve scontrarsi e non poco con la Germania per effettuare queste operazioni, e quindi sarà molto interessante capire dalle 14.30 cosa dirà Draghi. Quindi, se dovessimo sostanziare quello che ci ha detto fino a questo momento, secondo lei su che scadenze questa di titoli di Stato questa operazione si posizionerà? Ma non lo sappiamo, è chiaro che inizialmente si concentrerà sulle scadenze a breve, nella misura in cui le scadenze a breve avranno comunque dei rendimenti positivi. Oggi in realtà osserviamo che già nella maggior parte dei paesi europei core i titoli a breve hanno rendimenti nulli o negativi. Quant'è questo... il breve periodo nel settore obbligazionario, dottor Loser, tanto per tradurre le nostre scuole? Entro i tre anni. Sotto i tre anni. Sotto i tre anni. Però il tasso è negativo, si avvicina a essere negativo anche nel segmento 5 anni ormai, con i titoli tedeschi, con i titoli olandesi. No? Cioè, e quindi è chiaro che questo pone il problema che accennavamo prima di finanziamento diretto degli stati, e quindi probabilmente si concentreranno in tutte le scadenze. Certo. Tra l'altro sarà anche molto interessante, abbiamo imparato in questi anni come sia rilevante anche la modalità di comunicazione delle iniziative da parte delle banche centrali e dei banchieri centrali. Oggi sarà molto interessante veramente fare l'analisi logica e grammaticale di tutte le espressioni di Mario Draghi. Voi che cosa vi aspettate oltre a questo? Questi 50 miliardi al mese di acquisto di titoli di Stato, appunto, dei paesi dell'Eurozona, ma secondo lei ci saranno altri annunci, oppure magari dirà qualcosa in meno perché il mercato ha già scontato più o meno un'iniziativa di questo tipo e Draghi non vuole andare oltre, perché altrimenti quali aspettative poi si alzano sempre di più e lui alla fine questo famoso bazooka non avrà più modo di usarlo? Insomma, che cosa altro vi aspettate, dottor Loser? Poi lo approfondiamo nella seconda parte della trasmissione. Guardi, il governatore Draghi è famoso per essere un mago nella comunicazione. Dei colleghi americani recentemente hanno ribadito che Draghi è riuscito a ottenere con le parole quello che alla Federal Reserve è costato 3 trilioni di dollari. Quindi gli spread italiani sono andati da 500 a 100 semplicemente con le parole, senza nessuna azione vera. Al momento è chiaro che questo passaggio è un passaggio estremamente delicato, ha tutta una serie di attenzioni politiche, si realizza in un momento in cui gli americani stanno andando completamente dall'altra parte, abbiamo delle tensioni sui cambi che questo ha indubbiamente creato, e i frontalieri svizzeri ne sanno qualcosa. Quindi immaginiamo enorme cautela da parte sua nel comunicarlo al mercato e un tentativo, per quanto possibile, di evitare che i rendimenti effettivamente scendano sotto il livello dello zero. Cuore e denari. Ed eccoci ritrovati a Cuore Denari, dove la parola d'ordine oggi è liquidità, la parola d'ordine di ogni giovedì invece, come sapete, è investire, anzi il concetto d'ordine è investire informati. Investire informati. La nostra pagina di Denari del giovedì, dedicata alla spiegazione dei termini del risparmio, come funzionano i prodotti di investimento, dove vanno i mercati e perché prendono certe direzioni. Oggi con noi il dottor Ugo Loser, amministratore delegato di Arca SGR. Naturalmente leggiamo i fatti finanziari degli ultimi giorni, abbiamo idealmente aperto, ma non tanto idealmente perché ci abbiamo sotto gli occhi, il Sole 24 Ore, le pagine di finanza anche degli altri quotidiani, per soprattutto tradurre in termini semplici quello che accade oggi a Francoforte, dove è riunito il direttivo della Banca Centrale Europea, pronta a varare il quantitative easing, questo piano di acquisto di titoli di Stato dei paesi dell'Eurozona. Le modalità oggi ce le spiegherà Mario Draghi, ma intanto col dottor Loser abbiamo cercato di capire che impatto ci sarà nelle nostre tasche, visto che gli italiani, dottor Loser, probabilmente voi lo vedete anche dai vostri fondi di investimento, sono degli investitori a cui piace il prodotto domestico, sono ancora dei grandi investitori in titoli di Stato italiani. Che tipo di monitoraggio fate voi dalle vostre sale? Assolutamente, gli italiani sono molto affezionati al BTP e al titolo di Stato, ma perché negli anni il BTP ha reso molto bene senza rischi. Quindi c'era una sorta di pranzo gratis dove sapevo di poter valorizzare i risparmi nel tempo senza dover prendere alcun rischio. È chiaro che gli ultimi sei mesi e soprattutto i prossimi sei mesi cambieranno drasticamente questo scenario. I BTP andranno a tassi nulli o quasi negativi come quelli dei paesi vicini che già sperimentano tassi nulli o negativi. E quindi per investire i propri risparmi, gli italiani dovranno scendere, se tenerli di fatto sotto ancora il materasso, oppure dovranno prendere dei rischi, come avviene peraltro, no, in tutti gli altri mercati più sviluppati, estendendo la maturità dei titoli che comprano o spingendosi su altri strumenti che non sono titoli di Stato. Come possono essere per esempio il mercato azionario, dottor Loser? Perché questa è un'indicazione interessante, quella che, come dire, indirettamente adesso ci ha dato. Molte piazze europee, ma anche altre piazze internazionali, sono sui massimi. Questo sta accadendo a Wall Street da molte settimane, accade per la piazza tedesca che ha superato delle soglie interessanti nelle ultime sedute, per cui mi chiedo appunto se la politica monetaria a Francoforte possa spingere ulteriormente i corsi azionari e verso ancora quali traguardi, perché insomma ne sono stati già raggiunti di interessanti. Assolutamente, e per quanto riguarda le borse europee siamo, dice, in generale ben lontani dai massimi che abbiamo raggiunto in passato, quindi c'è ancora spazio per crescere, soprattutto per Milano, che insomma un po' appesantita dalle banche fa un po' più fatica delle altre, ecco, delle altre piazze europee. Non c'è dubbio. E è anche vero che la cosa importante è riuscire a diversificare appropriatamente l'investimento azionario. È chiaro che il mondo non è più tutto uguale come negli anni peggiori della crisi. Ci sono paesi che sono usciti ieri formalmente, dopo il discorso, non sullo stato dell'Unione, del presidente americano, dalla crisi. Il tasso di crescita mondiale si aggirerà o supererà il 3% nel prossimo futuro, e quindi non c'è nessuna controindicazione a investire in titoli azionari. È chiaro che il modello di business seguito dalle società sarà molto importante per capire che tipi di rischi si va a incorrere quando si comprano e soprattutto azioni. Certo, bisogna capire anche su quali settori puntare, perché stavo immaginando anche un po' quello energetico, no, dottor Loser, molto in movimento nelle ultime settimane a causa delle oscillazioni del prezzo del petrolio, oscillazioni verso il basso più che altro, quindi anche lì bisognerà guardare bene quali comparti in particolar modo saranno più promettenti dal punto di vista della crescita degli utili delle società, naturalmente quali invece avranno uno stop. Allora, non abbiamo ricordato che gli ascoltatori possono intervenire all'800 24 00 24, come ha fatto Ottavio, esattamente, che ci chiama, poi da Piacenza. Allerta, perché fra poco andiamo con il domandone, per cui mi raccomando, cercate di fare mente locale su quello che abbiamo detto nella prima parte di Investire Informati. Ottavio, buongiorno, benvenuto. Buongiorno Deborah. Sì, ti ascolto tutti i giorni, io. Perché Nicoletta, bravo. No, perché seleziona Ottavio. Benvenuto, stavo scherzando, Ottavio, non si preoccupi, ci dica. Dunque, io ho bisogno di sapere, perché ho dei titoli di Stato, dei BTP. Sì. Voglio sapere, con questa manovra che fa Draghi, se aumentano di valore o se calano di valore. Ottavio, allora ha perso un pochino la prima parte della trasmissione. Intanto, dottor Loser, allora i rendimenti dei BTP veramente stanno sperimentando soglie verso il basso mai sperimentate in passato, peraltro anche proprio per i gestori, per gli investitori professionali è uno scenario nuovo nel quale vi state muovendo, no? Quindi insomma, strategicamente e anche tatticamente, perché poi l'investitore professionale fa anche delle scelte tattiche più che strategiche nel lungo periodo, rispondendo alla domanda di Ottavio, insomma, che immagino possa essere anche quella che molti dei vostri clienti vi rivolgono, che cosa succederà? Succederà che i tassi di rendimento dei titoli scenderanno e quindi il loro prezzo aumenterà in maniera importante. Noi stiamo uscendo dal settore breve dei titoli di Stato, in quanto per un investitore privato detenere un titolo che rende lo 0,2% dopo che ci ha pagato le commissioni di custodia e le tasse su, è inutile. No? È inutile, è solo i rischi che questo titolo ritorni a rendere invece di più per qualche incidente di percorso, e quindi è chiaro che nella ipotesi, ancora da verificare peraltro, no? Perché delle sorprese ci sono state, che i rendimenti non possono essere significativamente negativi per le ragioni espresse prima, tendenzialmente la detenzione di titoli di Stato di 3 anni, 5 anni a questo livello di rendimenti ha poco senso. Ci sono opportunità o nel mondo del credito, nel mondo degli yield, nel mondo degli spread, nel mondo dei subordinati bancari, nel mondo di tutta una serie di strumenti che possono rendere ancora in maniera interessante, chiaramente assumendo più rischi, oppure andando verso portafogli diversificati di strumenti che sono illiquidi e che, essendo difficili da vendere, si possono comprare, certo, a sconto. Dottor Loser, però io mi stavo adesso, mentre ascoltavo e seguivo il suo ragionamento, non è che uno scenario come quello che lei ci ha disegnato fino a questo momento può far e può generare un altro momento di allarme per il nostro paese? Mi riferisco al fatto, non è che cominciamo poi adesso ad assistere a delle uscite massicce degli investitori da titoli di Stato a punta breve con conseguenze, conseguenti preoccupazioni per lo Stato italiano? Non è che generiamo un'altra fase di emergenza, oppure comunque l'investitore professionale rimane ugualmente su queste scadenze? No, direi che l'effetto netto è che a questi valori di rendimenti l'investitore privato, professionale, che guarda, indipendentemente se individuo o fondo, che guarda il rendimento del suo investimento, non ha nessun interesse a detenere questi titoli. Dall'altra parte c'è una banca centrale che ha annunciato che vuole comprare 600 miliardi di titoli di Stato, ecco, anche a rendimenti, esatto, nulli. Per cui ecco la compensazione, diciamo, quindi nessuna emergenza, nessuna nuova estate 2011 come quella, appunto, che portò lo spread a 570 punti base nel giro di poche settimane. 800 24 00 24. Roberto, prima di sentirlo posso fare il quizzettone? Perché dai, così diamo qualche, sì, perché minuto, sono le 12:19, e così almeno gli ascoltatori hanno qualche minuto di tempo per rifletterci. Domandone. Avete sentito il dottor Loser, ma io devo farla la domanda. Certo, facciamo cimentare i nostri ospiti anche in questa versione. Mike, buongiorno. Allora, sì, perché tra l'altro, siccome è un concetto che ci ha spiegato lei nella prima parte della trasmissione, direi che possiamo fare agli ascoltatori questa domanda. Che ne dice? E allora, eccoci qua, se la rilegge il dottor Loser, così ve la fa ancora meglio. Qual è l'operazione che lancia oggi Draghi, dottor Loser? Allora, il quantitative easing. Eccolo là, il domandone. Cosa significa quantitative easing e com'è che viene messo in essere dalla Banca Centrale? Qui è proprio... facciamo fare una bella lezione ai nostri ascoltatori, però siccome lui, dottor Loser, ce l'ha spiegata in termini molto semplici, noi ci aspettiamo che voi in maniera altrettanto lineare l'abbiate compresa e quindi ce la possiate rispiegare. 800 24 00 24, per prenotare libro, il vostro intervento, ecco. E ricevere a caso un libro di Cuore di denari immagino. Vediamo. Roberto, buongiorno da Reggio Emilia. Sì, buongiorno. Senta, io chiamavo perché volevo chiedere una cosa. Siccome l'esperto diceva che i titoli di Stato, se non ho capito male, perderanno valore, no, con questo quantitative easing, io ho in portafoglio dei BTP Italia e volevo sapere se insomma mi perderanno di valore anche questi titoli. Allora, il BTP Italia, ricordiamo, è stato proprio il frutto della divaricazione dello spread, il figlio della fase più acuta della crisi finanziaria che ha riguardato l'Italia. L'operazione è studiata da Maria Cannata, dirigente del Ministero del Tesoro, che ad un certo punto ha detto: sapete che c'è, propongo alle famiglie italiane uno strumento particolare proprio fatto su misura del risparmiatore italiano. Questo BTP, durata 4 anni, una cedola, un flusso cedolare appunto specifico, un premio peraltro per tutti quegli investitori che lo detengono fino a scadenza, tutta una serie di caratteristiche particolari, potrà essere, come dire, contagiato anche da un nuovo ribasso dei rendimenti dei titoli di Stato italiani anche questo segmento particolare, dottor Loser? Hanno motivazione, hanno ragione di essere le preoccupazioni di Roberto? Allora, no, il signor Roberto non si deve preoccupare, e credo che vada spiegato chiaramente agli ascoltatori che esiste una relazione inversa tra il rendimento del titolo e il suo valore, ovvero a una discesa dei rendimenti dei titoli corrisponde un aumento dei prezzi dei titoli. Quindi il BTP Italia posseduto dal signor Roberto aumenterà di valore ed è probabilmente già aumentato in maniera consistente di valore rispetto a quando il signor Roberto l'ha comprato, e aumenterà così tanto di valore tale da rendere poco interessante continuare a detenere questo titolo, perché è chiaramente un titolo che aumenta di valore fino a un livello in cui il rendimento che esprime è pari allo zero, ha poco senso tenerlo in portafoglio. Tra l'altro, questo titolo, se non ricordo male, aveva anche in quel frangente il vantaggio della copertura dall'inflazione, che in uno scenario come quello attuale, anche questo è un principio che non ha più tanto senso, dottor Loser, giusto? Assolutamente, è chiaro che nella misura in cui l'inflazione attesa è sicuramente bassa o negativa, detenere titoli a copertura del rischio di inflazione di nuovo ha molto poco senso. Sì. Dottor Loser, no, stavo guardando che ci sono molte domande da parte degli ascoltatori sul tema della fiscalità degli strumenti di investimento, a cui noi abbiamo dedicato molte puntate, aspetto del quale però non si parla moltissimo anche sui giornali di cronaca finanziaria, o quell'aspetto invisibile del quale il risparmiatore si accorge solamente a fine anno, quando arriva l'estratto conto finale, no, del proprio risparmio, effettivamente, di come questo viene gestito a seconda dell'intermediario al quale si rivolge. I vostri clienti che cosa dicono? È un aspetto rilevante in questo momento, oppure chi sceglie uno strumento di investimento, come dire, considera relativamente il tema fiscale? Ma direi che lo considera relativamente, ovvero le scelte di investimento si fanno a prescindere dal tema fiscale, vanno ottimizzate per quella che è la fiscalità, ma i prezzi nel mercato già discriminano, no? Tra investimenti fiscalmente opportuni e convenienti. Investimenti penalizzanti da un punto di vista fiscale, quindi è chiaro che i BTP rendono meno di altri titoli perché sono tassati di meno. Certo. E quindi mantengono questa fiscalità di vantaggio. Peraltro, l'intervento di Lorenzo che ci aiuta ad approfondire questo tema e a confrontarci. Buongiorno a Lorenzo, ci chiama da Firenze, al nostro numero verde, benvenuto. Buongiorno. No, io volevo solo fare una domanda, perché mi sembra che questo quantitative easing abbia poca influenza, anzi scarsa, perché l'Italia ha già 470 miliardi di euro in pancia alle banche. Le banche se ne libereranno anche, ma se non viene ridotta la tassazione in Italia, come si fa a fare la ripresa? Lei parla, diciamo, di tassazione in termini generici. Lo so, qua, dottor Lose, non so se lei abbia incontrato Matteo Renzi in tempi recenti e ha sollevato questo aspetto, però Lorenzo, ha tutta la nostra approvazione rispetto a questa considerazione. Effettivamente, come dire, una ripresa dell'economia reale non può passare solo ed esclusivamente dalle scelte che vengono fatte a Francoforte, ma devono passare anche attraverso la politica economica del governo del paese sul quale si sta, che come non si può non condividere quello che dice Lorenzo. Dottor Loser, che dice lei? Assolutamente, si condivide il fatto che la pressione fiscale sia troppo elevata per generare una ripresa. Un aspetto interessante legato al quantitative easing è cosa succede alla fiscalità se i tassi sono negativi. Cosa succede? Bisognerà pure questo che la rivedano. Devono rivederla certamente, perché tra l'altro, a parte questo, e poi lo ricordavamo a microfoni spenti, in realtà era anche un tema previsto nella nostra scaletta. Proprio nei giorni scorsi il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dato questo suggerimento, non tanto velato, ma ha detto agli intermediari finanziari, quindi alle banche: attenzione, che se un risparmiatore viene da voi e sottoscrive un titolo di Stato a breve e quindi che ha un rendimento molto basso, voi non potete fargli pagare le commissioni bancarie, quindi riducetele quanto più possibile, e il Ministero dice se vanno a zero questi tassi annullateli addirittura, segno che stanno andando a zero. Dottor Loser, sicuramente c'è una alta probabilità che i rendimenti dei titoli di Stato, specialmente a breve, i BOT, vadano a zero. È un po' preoccupante l'impostazione del Ministero, che dice tu sei corresponsabile del risultato di qualcosa che non controlli, quindi il servizio comunque lo rendi gratis. È un'impostazione quantomeno discutibile. È chiaro che ritengo il problema si porrà in misura limitata, in quanto gli investitori difficilmente saranno attratti da strumenti che rendono zero quindi, no? O con rendimenti negativi. Come ha detto lei prima, impatto zero in termini di conseguenze. Abbiamo Claudio che risponde al domandone. Claudio, benvenuto. Buongiorno a tutti quanti. Noi abbiamo la siglettina d'attesa al quizzone, alla risposta del quizzone. No, non ce la manda Paolo. Se vuoi la facciamo noi. La vuoi far tu? Dai. Vuoi cantarla? Claudio. No, intendevo quella di prima che lancia il quizzone. Vabbè, comunque, Claudio a Udine. Lo sa che devo venire questo weekend per un lavoro? ho visto che dal 21, da ieri al 24 c'è questo... Sì, vabbè, non importa, Claudio. Vada, la risposta. Allora, il quantitative easing è l'acquisto di titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea per immettere liquidità nel sistema. Quindi, dottor Lora, è stata efficace la sua lezione? Ottimo. Abbiamo avuto anche un prof, devo dire, a molto 5 chiaro, stelle. Molto chiaro, quindi naturalmente. Claudio è stato bravo, ma è anche fortunato. E in tutto questo la trasmissione è terminata, per cui dottor Lora deve tornare a trovarci, parleremo molto degli volentieri. Argomenti che ci sono rimasti fuori oggi. Paesi emergenti, prospettive di crescita interessanti, dove mettiamo i nostri soldini in questo momento, le valute dopo la decisione della Banca Centrale Svizzera, insomma ne abbiamo molte, per cui l'aspettiamo fra un mesetto se vuole. Grazie mille. Grazie molte. Noi torniamo domani, sempre alle 11, c'è Paolo Corleone in regia alla parte tecnica, speriamo ci sia anche domani, Isotta Scenna, Marco Lombardo che ci accompagnano. Ebbene. Passatevi un buon pomeriggio e noi torniamo. Buona giornata.